La tangenziale l'abbiamo bloccata, abbiamo fatto inscenato un checkpoint come quelli che ci sono in Palestina e come quelli appunto tutti i muri che sostanzialmente bloccano tutte le popolazioni che sono sottoposte a guerre. Abbiamo fatto quindi fluire il traffico pianissimo, adesso ci siamo spostati, siamo sentiti dopo un'ora, siamo spostati, raggiunti da compagni e compagni, abbiamo fatto azione in altre parti della città, sempre blocchi, e adesso siamo a San Lorenzo e stiamo andando verso Piazza Vittorio.